Yes, yes. Hola, hola, hola, hola, hola. Chucu, chucu, chucu. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Muoio. Cosa stai facendo? Mi ha detto il porco, sto facendo. Sì, non c'è il porco, non c'è un problema. Spero che sono io a iniziare gente. Ce ne sono due, ce ne sono. C'è Parigi e Gagnacci. Ma dove? Sono le 10 in BMR. Manca, sono con questo BMR, sì. Mamma mia. Lascia verde. Mi interessa più o meno, no, sto dicendo qua, 27, macchina KF, stavo girando, c'è poca roba. Vabbè, non c'è nessuno, io ne ho fatto la prova un coso. Mi ha preso l'apparecchio, solo che il 27 esce, e ho dovuto fare la prova insieme a lui in 28.015. Stai attento, non vi spostate, ho preso 27, mi attingesse, metto me. Sì, non è che ci sia stato 3 ore a parlare, gli ho dato un controllo e poi gli ho detto sempre l'apparecchio, ho detto o a Coso, o a Vittorio, o a Fabrizio, gli ho detto, se hai problemi, perché se non esce il 27 devi fatelo modificare. Infatti ho detto poi se c'è la 26965, ma tu che dice e basta, solo quella prova abbiamo fatto, è stato la boomerang di lui, quella che aveva regalato io a San Verio, ce l'ha messa via Monte Oro e questo già arriva a San Senero e basta, dopodiché abbiamo chiuso, era solo per fare la prova, non era per altro. Ma chi è questo, che apparecchio è? Era fa Pietro, si chiede, ma è bello come apparecchio, se l'ha comprato l'ho pagato 500 euro, è bello, solo che non è aperto, capito, è serrato, Sì, ma che apparecchio è, non so, cos'è, della Iaesi o cos'è, io ho il 920, il 7920, anche il 7920, quando l'ho comprato, il 27 non andava, devi entrare nel menu e aprirlo, c'è l'apertura, non devi toccare niente, cos'è devi toccare, devi entrare nel menu e guardare se in off, se in on la parte degli 11 metri, il mio non modulava per esempio in FM ed era chiuso, sono entrato nel menu, ho visto come si faceva, ho letto insomma, ho fatto l'apertura, adesso è aperto 0.30. Molti apparecchi sono così. No, lui è entrato nel mio, stava controllando e non c'era nessuna possibilità. Adesso bisognava aprirlo e fare non so che cosa dentro. Cosa ti è successo? Mi è rimasto un bel posto in mano. Perché non avevo evitato di cose di cose. Ecco che c'è un botticello, qualcosa del genere, sembra aver capito, oppure una specie di cosa da togliere, non l'ho capito bene comunque, adesso non mi viene il nome giusto. E mi ha detto che già lo lascia così, intanto gli ha detto sta facendo il corso, quindi non gliel'ha fatto nulla per la 27, ha detto che se prende un 3009 oppure uno qualche altra cosa per la 27. Anche lui sta facendo il corso, bene, tutti in corso Vittorio Emanuele, insomma, vabbè, allora voglio dire che ti informata così andisci, speriamo bene, ma dipende da che radio è, secondo che radio è c'è da tagliare il dio per fare l'apertura 0.30, se no fa solo 10, 15, 20, 40, 80, capito? Tutto il... No, il mio è l'F9.20, è più mano di Rugarci, è enorme, poi c'è tutto un menu, sotto menu, quindi devi entrare nel menu e mettere in on perché te l'hanno chiuso. sicuramente c'è da tagliare il dio per fare la sintonia continua, capito? Come si fa spesso in tantissime radio. Se quello è, non l'hanno tagliato, fa solo 10, 15, 20, 40, 80 metri. Infatti non ho fatto niente. Io ho detto, infatti allora ho fatto 7, 14, 22, 28, eccetera, eccetera. Io ho detto, tu sì, quindi. Io ho detto, allora, sei tutto così, se non vuoi, infatti fare quella modifica. Due sono le persone che le fanno, io ho detto, quindi non costa niente, al limite fatto portarlo e due minuti te l'apre. Detto che se lo potevo lasciare così, e vabbè, lo lasciamo così. E poi adesso, ti prendi al limite un 3.900 omologato, se lo trovi 100 euro o 200 euro, cosa ne so, e lo usi per la 27, e già va bene. Poi l'altro, se ti pigli la patente, adesso, lo utilizzi così com'è. Quindi la patente è una cosa grossa. Pianto di acqua, gli essere patente. Va bene. Comunque, quella, non si dice 7, 14, si dice 10, 15, 20, 40 e 80 metri. 7 è la frequenza, 7.000. Non è la banda è di 40. Quindi quella radio fa 10, 15, 20, 40 e 80, le 5 bande che fanno tutte le radio. Poi per poter andare a sintonia continua devi tagliare un dio, lo porta da Vittorio, col manuale di istruzione, lo schema elettrico, glielo fa. Capito? Tutto qua, come tutte le radio KF, soprattutto gli ASOI, come sono così, la Q delle lava già a sintonia continua. Lo I come gli ASO delle la chiuse. Infatti, gli ha fatto chiuso. Ma vabbè, è un apparecchio per l'area amatoriale, non è che sia per la 27. Era a pagare per 500 euro, quindi. Sì, è bello, l'ho visto la fotografia, è bello. L'ho voluto nuovo lui. Quindi, l'ultima generazione, e quelli belli. E quindi ha fatto bene. Questo già esce. Il M esce, però non c'ha. Esce con microfono normale, dico il microfono normale del mio quadro banda, la stesso tipo di modulazione. C'ha un pulsantino dietro. Capito come c'avevo io e la modulazione. Infatti io ho detto passa in FM che è meglio, se no in AM a malapena ti sento se non ti avvicini. Evidentemente c'ha quel microfono con la tastiera senz'altro. Sì, è chiuso. 500 euro nuovo, l'ultima generazione. L'ho ritirato a 700 io, l'FT920 di ultima generazione, con DSP, digitale e tutte cose. C'ha tutto dalla lavetta, è tutto digitale. L'ho ritirato perché l'avevo venduto io a Valerio, gli ho ritirato di nuovo. E l'ho pagato nuovo, ti ho detto io, cos'è un cicafuglio. Stasera, se me lo ricordo glielo chiedo stasera che apparato è. Di che marca è, poi te lo dico. Mi sono dedicato di chiedergli la verità. Mi aveva mandato la foto del display e basta. Tutto già bello. Meglio così. Peccato come c'avevano la. Come si dice, non si possono far arrivare apparecchi dalla Cina, perché quelli cinesi sarebbero stati meno costosi, la verità. Sì, ma sono delle merde. Delle merde, non pensano i natali, perché come apparecchio della materiale io ne avevo sentito uno, l'FT878, insomma, o 888, non me lo ricordo. Era bello, in ricezione era una cosa vicinata, anche in trasmissione, c'era l'adattatore di fuori, l'unico che c'era. Vai, che non si possono paragonare a certi apparati, dai. Quelli cinesi sono delle truffe, più che altro. Guarda, il Fai Tong ci va benissimo. Io, se tu guardi il Fai Tong su internet, ce n'è solo uno, ce n'è solo uno in Italia, basta. Gli altri non ce n'è nessun altro, ci va bene. Ci avviene $400, vedi qua. C'era la voglia d'attore, si è fatto la registrazione, addirittura aveva usato un'antenna messa lui in macchina, il cavetto usciva fuori e aveva attaccato la ringhiera del muro di nostra vita. Wow, io c'avevo l'857, costava €750, costava l'857, però quello confronta chi di cinesi è un signore, quell'apparecchio, perché funzionava bene, se regolato bene, io uscivo da tutte le parti, ebbene però mi uscivo, perché era regolato bene, perché sennò in qualsiasi posto che andavi, se non era regolato, uscivi male. Bisognava conoscerlo quell'apparecchio. Infatti il mio mi ha aiutato una persona a regolarlo. In qualsiasi posto che andavo uscivo bene, anche in 27 usciva bene. Ma tu l'hai tagliato il diodo, Natalino, ma l'hanno già fatto così. Come? Il diodo, tu l'hai tagliato, il diodo per fare la sintonia continua all'857, ma l'857 è un signore radio. È piccolo, ma funziona bene, come 7003, tutti quelli che stanno uscendo adesso così piccoli. Tu l'hai tagliato il diodo, te l'hanno già dato così. L'hai comprato già col diodo tagliato per la sintonia continua, perché anche quello è chiuso quando lo vendono. No, a me me l'hanno già mandato così, l'avevo comprato nuovo io, poi per il menù mi aveva aiutato il mio vicino di casa, mi aveva aiutato, che ce l'aveva uguale in macchina, infatti io me lo mettevo in macchina, c'avevo l'unità dietro e il display davanti, cazzo era una figata quell'apparecchio, ho fatto male a venderlo. Avevo pagato €750 mi sembra, però era un signor apparecchio quadribanda e si è un bel fuochi. No, andiamo bene, 857 a luglio. Va benissimo, sicuramente è come quello che ci ha preso Fabio, perché a quel prezzo solo quello lì puoi prendere. E se gli avevate €500, quantomeno è nuovo. Sicuramente magari usato pochissimo, ce l'aveva qualche ditta, qualcuno, insomma, qualche negozio lo stava vendendo così, però non ce n'è radio a €500 a HF, adesso compare giù €500, lascia verde. Va bene, dai, io vi lascio 10 minuti, vado a dare una passata all'acqua al prato, ci sentiamo dopo, vai Antonio. L'ho avuto anch'io, io ho avuto 857D, ho avuto, quindi figurati, ci va benissimo, ci va, era di lusso. Allora vediamo un po' se me lo apre, va bene, cosa cavolo di apparecchio è, la marca. Non mi apre il video, fa cuffia. Vabbè. Ma azienda. Guarda, l'ho venduto io a seconda mano, €500. Cazzo, non è troppo apparecchi così, io quando l'ho preso nuovo, perché però il mio era lì, il mio c'era il microfono remoto che potevi far tutto dal microfono, che c'aveva la tastiera quello che avevo io, perché era preciso uguale a quello di Marco, del mio vicino di casa, e guarda, era un apparecchio di lusso, e forse di più di 750 l'avevo pagato, io mi ricordo così, ma forse era anche di più, non voglio dire una fesseria, infatti io me l'ho venduto €500 quell'apparecchio. E gli avevo dato anche il kit di separazione, perché io avevo anche il kit di separazione. infatti io quando me lo mettevo in macchina c'avevo l'unità dietro attaccata allo schienale, ce l'avevo per non prendere i colpi di dietro, e poi c'avevo il frontalino davanti, ed era una bella quella parecchia male fatta da allora. L'ho avuto anch'io dopo 57D e poi a me me l'aveva venduto Marco, poi l'avevo venduto a Stefano, capito? Dopo che gli avevo prestato poi l'aveva bruciato. Allora mi sono fatto fare i soldi e l'avevo dato a lui. Che va tutto, scatto, la unità esterna, tutto l'avevo dato. E anche io gli ho dato tutto. Avevo venduto a un amico 500 euro, però era un signor apparato, il mio era nuovo, l'avevo tenuto un paio di mesi e poi me l'ho venduto, anzi, non un paio di mesi di più, perché gliel'avevo venduto quando ero tornato qui, infatti era venuto qui a prenderselo, dove sono io adesso, qua. Quell'apparecchio lì. Me l'ho venduto quando ero qua già, prima avevo venduto il 440 e poi mi avevo venduto quello lì. E comunque cosa nuovo, cioè nella, su Amazon e cosa del genere, cioè, su Wish c'è, cioè, qual è la piattaforma dove vendo la roba? Intorno ai 1000 euro viene quell'apparecchio lì, sotto 57D, figurati. È l'unico che anche c'ha quel prezzo lì ancora molto molto alto, perché è l'unico qua di banda che è piccolo, capito? Per quello ci arrivano i sapolini, tutto lì. La seconda mano è trovo intorno ai 500, non di meno. No, di meno di 500 non ne trovi di quelli lì, no. Il mio era nuovo, poi mi quello che ho dato. Perché io quando me l'ho tirato dalla macchina poi non lo usavo più, ce l'avevo in stazione ma non lo usavo, perché mi usavo quell'altro, capito? E poi Iaesu, non lo so io, cazzo ci va un 100 watt quello. Non so che c'è 100 watt, già lo so, lo usavo io per andare in cosa, in PMR, era un demonio, e anche per la 27. C'aveva il microfonino, però quella gomma è stata la tastiera, che c'aveva il pulsantino dietro, poi sono uno, sono due. Io ho capito, il mio era il VI, perché c'aveva il microfono con la tastiera, era l'altro tipo, infatti costava di più, 8,50 l'avevo pagato, io non me la metto, perché quello che avevo io era l'altro modello, uguale a quello che ce l'aveva il mio vicino di casa, che ce l'aveva in macchina lui, e usava quello. Già lo so io di chi stai parlando, appena l'ho venduto è stato un ecco io a lui, figurati, sono andato a casa una mattina, l'ha preso, mi ha guardato, c'è un 50 euro con microfono amplificato, poi l'ha tenuto un po' di tempo e poi se l'aveva venduto, mi ha detto, il Saturneco, perché ne aveva 3 o 4. Lo so, cazzo, sono salito l'altro giorno in campagna e non l'ho trovato qui in Arone, cazzo, se no me l'avrei messo qua, sono un 4 watt, che non l'ho trovato, invece ce l'ho buttato. Quello che mi aveva fulminato. Ah, la persona ci aveva buttato, magari adesso non ti ricordi dove l'hai messo. Devi ricordare che ti ha sbloccato dalla casa grande e poi ci sei uscito a mettere la roba dall'altra parte, capito? Quindi adesso ti trovi che è tutto sotto sopra, capito? Quindi la roba della 27 per trovarla ci devi stare un bel po', devi spostare tutto eccetera eccetera, e vedrai che trovi roba, magari trovi anche qualche rosmetto, K20, PL eccetera eccetera, microfoni, capito? Devi capire che quando si trasloca purtroppo la metà della roba ce la dimentichi, capito? Quando fai il trasloco, perché forse la sposti tra una cassetta e l'altra, o la scatola nell'altra, vai a ciappalo. Ma non l'ho trovato, no. Mi ricordo che era nero e c'aveva due valvole grosse, c'aveva. Quando sono andato a togliere le valvole mi avevo preso una bella schicchiata da quello. Ho capito, figurati. Io l'unica cosa che c'ho le valvole, quelle me le sono conservate qua a casa, ce le ho qua in camera, ce le ho. Neanche in garage le ho scese. Perché quando ho fatto il trasloco la garage, le ho buttato tutto, ho buttato un bel po' di roba, l'ho buttato, figurati. Che non mi serviva, che pezzi di baracchino e roba del genere. La buona cicala ci ha affittato, quindi non me ne fotte nulla. E questa era la roba che mi serviva, telefonia, roba del genere, la maggior parte l'ho regalata tutta. Mi è rimasto solo qualche cosa e ce l'ho dietro al divano, capito? Di quelle segreterie telefoniche che con quella palla che c'è dentro, scusi come si chiama, registrata. Quindi figurati, c'è quelle segreterie che tipo quelle nuove, ma sono nuove, quelle ne ho tre, più c'ho una palla che si aggancia alla macchina, che ti manda l'aria ionizzata, sembra un condizionatore d'aria, sembra piccolino. Addirittura c'è il cavetto, l'aggancia al pedale del freno, quando freni si accende la luce rossa dietro, lunga. E io capisco. E Giovanotti. Carlo. Buonasera, ben entrato. Ciao Natalino e Antonello, buonasera. Buonasera Carlo, ben sentito, ben alzato. Buia, morendo dal caldo. E voi ne avete di caldo. A voi te ne do un po'. Sono stato tirando un po' di aria, ho visto, meno male, ma stasera era. Mi sono buttato a letto dopo pranzo, mi sono svegliato dopo un'oretta, ero tutto sudato, alla fine mi sono alzato. E infatti. Uia. Vabbè là, io vi lascio che stavo facendo cosa qua e ho acceso e ho sentito Antonello parlando e sono entrato. E quelle mini cassette che si usavano una volta per registrare per le segreterie telefoniche, e quelle ne ho tre o quattro agganciate in quelle segreterie, figurati. Quelle sono introvabili, quelli viene bene a piazzarli se buschi di quei registratori modello vecchio piccolini. Se lo porti a passeggio, se lo metti in tasca, così registri la voce di quello che magari ti parla male. E ce l'ho uno di quelli io, che ce l'avevano i giornalisti, te lo ricordi quei registratori piccolini? Se poco registra bene quello. Però non so dov'è, che fine ha fatto. Ce l'ho comunque, della Panasonic. Cappa. C'è quelli lì, comprese anche le segreterie telefoniche da agganciare alla cosa. Poi c'ho due telefoni cordless, di quelli modello vecchio, che te lo porti a passeggio fuori e ti fa la casa tua fino ad arrivare all'incrocio con via San Donato. Quelli andavano intorno ai 43 mega, 34, e di quelli ne ho due. Avanti, Carlo. Ci ho buttato via tutto quella roba, tanto non la usavo più, anch'io ce le avevo giù in garage, perché cordless, telefoni con segreteria, questi che stai dicendo tu con la cassettina piccolina, perché tanto ormai con l'era, diciamo, dei telefonini c'è tutto là, ci sono mille applicazioni che registrano eccetera, per cui alla fine avevo fatto un una scatola tutta piena di queste cose, vecchie cordless eccetera, adesso ne ho solo uno a casa di cordless Panasonic, ma non lo usiamo mai, il telefono di casa non lo usa più nessuno, è sempre quando squilla è pubblicità, infatti l'ho staccato e lo attacco solo se dovesse servire in urgenza, che non funzionano i cellulari eccetera, magari hai bisogno di chiamare da un telefono fisso, allora a quel punto lo collego al modem e via, poi tutto il resto tutto rampato. Quello su 900 mega ce l'ho anche io, quel cordless, ma facevo il modem qui, agganciavo, anzi spendevo di meno la vetta, telefonato a casa che da telefonino, avevi da Siriglia col modem, perché se lo usi per internet ti ammazza, però solo per telefonare conviene. Infatti secondo Comemmi in seguito mi compro quello delle poste, dato non me ne frega niente a me di agganciarci internet, non me ne frega proprio niente, ci metto solo il telefono per casa e basta, nel caso c'è bel telefonino Simona che non funziona, almeno mi recupera direttamente dal telefono. Poi c'erano quei telefoni Philips, non so se ti ricordi, quelli della Timmy che si faceva la videochiamata, di quelli ne hanno regalato 4 o 5, ne hanno regalato. Non potevano per niente come videochiamata, era solo come bellezza, potevi fare le foto, la verità è che vanno belle e mandarle, ci potevi mettere una schedina nel fianchetto, una scheda SIM, mi sembra, una scheda d'atti, e mandavi le fotografie. Vabbè dai, io me ne faccio in quel ricco, vi saluto e ci sentiamo alle prossime, dai. Che sto facendo cosa qua? Ehi, ciao, buon Querix, a Tali ci sentiamo, alle prossime, avanti Carlo. Ciao Natali, tanto mi con Antonello facciamo due chiacchiere adesso e poi nel caso già, se vuoi entrare già siamo qua. Allora, c'è meno che Natali, il vento è sparito adesso, vabbè fa culo, c'era il venticello 2 minuti fa. Sì, adesso ogni tanto si ferma, però se tira mi sembra che un po' di fresco. Speriamo che si alzi il maestrale, più che altro perché così si porta via l'umidità, se no così non ti fa respirare. Ehi, sempre si può evitare, ho mangiato una bella pentola di cose di sardine a pranzo, se ne ho un'altra pentola, l'ho messa dentro, come si chiama, domani mattina me la scaldo nel fornetto. Mi sono comunicato manco 5 minuti e ho cominciato a sudare, ho preso e mi sono alzato a fanculo, perché si usa quel ventolone, mi fa peggio, mi fa. È proprio la ventola quella grande. Allora io l'ho tenuto tra 3 e 5 minuti, boh, mi sono cominciato a sentire dolori articolari, ho preso a spento. Noi a casa abbiamo condizionatore, non ne usiamo, il ventilatore quando c'è troppo caldo, ce n'è uno in cucina, uno nel salone e poi se servono nelle camere si toglie quello del salone, quello di cucina si porta nelle camere, ma la notte ho visto che bene o male con le finestre aperte io spalanco tutto e già si respira. Il problema è di giorno, capito? Poi c'è quello che ti fa sudare, oggi ci sono 30 gradi ma si suda più di ieri che c'erano più gradi, perché c'è l'umidità troppo alta, capito? E quello ti frega, quello ti fa sudare. Ci umido, sì, purtroppo ci umido, non faccio niente. Domani vediamo il mare 45, qui c'è segnato da domani 45, nelle zone interne. Aspetta il telefono un attimo, arrivo subito. Vai tranquillo, già sono qua, non sto facendo roba. Prova canale 10, prova canale 10, prova. Avanti. Carlo? Avanti. Ciao Carlo. Claudio Nevada, Porto Torres. Me lo dai un controllo di radio? com'è? Ora, qua mi arrivi con un Santiago di 9 e una radio Super 5. È un CRT 6009, mi è arrivato oggi, lo sto provando. Sì, va bene, c'ha anche il beep, infatti ho detto chi è questo segnale, buono, me lo ricordo. Va bene, buonasera comunque. Io prima ero in radio, c'era Antonello che si è spostato, gli è arrivata una chiamata, Natalino lo stesso vado a fare, non avevo visto il segnale, ho detto forse qualcuno fuori, ma non avevo capito chi era. Lo sto cercando ancora, non ho capito, perché c'hai i comandi un po' tutti diversi dagli altri barattini. E lo sto scoprendo un po' alla volta. E purtroppo non c'ha il manuale in italiano e quindi tocca star lì a prova che riprova. Come radio è buona, la voce è bella chiara, capito, comprensibile, forse quello esce con una decina di watt già, Claudio. Sì, sulla carta c'è scritto 12 watt massimi. Sì, 10 o 12 siamo lì. Sì, ho capito di quale radio stai parlando. Se non sbaglio è aperta quella sino ai 29 qualcosa. Sì, si può programmare tramite computer. C'è un sacco di menu, si può variare un sacco di cose. E la sto scoprendo un po' alla volta. Sicuramente avrai tutto il tempo per farlo, come quando si prende una cosa nuova piano piano, anche perché sono radio moderne, per cui hanno sottomenu eccetera. Poi sì, sicuramente ci vorrà il programmino col computer, la devi collegare al computer e da lì variare un po' i parametri che vuoi tu, capito? Sì, ci vuole il cavo suo che è acquistabile a parte, quando mai, mica te lo mettono dentro. Mi sembra che viene 22 euro, un cavetto stupido. Sì, sicuramente quei cavetti hanno un valore di 2 euro, 3 euro massimo, capito? E te lo fanno pagare un sacco di soldi. Sì. Poi stranamente non c'ha il mic gain come tutti gli altri apparati, ma devi entrare nel menu e sceglierti tra 64 regolazioni. E poi ho provato, non è che varia molto, è un microfonino piccolo piccolo, di fatti appena posto glielo cambio. Tipina 6? C'è scritto CRTM6. Dovrebbe avere 6 pin quello, occhio, perché se sono come quello che utilizzo io ho un Albrecht 5890 e ha l'uscita del microfono a 6 pin, praticamente il microfono è quelli che sono alimentati, capito? Cioè dalla radio esce una piccola alimentazione che serve al microfono, e anche questo, diciamo, puoi fare qualche regolazione col display, no? Sempre della radio, anche se ho visto anche a me, ho provato a cambiare e poi ho lasciato l'impostazione di base che è quella migliore, capito, e non lo tocco più, però ho adattato l'MB più 4 per questa radio e non funziona come esce come microfono normale, non prende la preamplificazione. In molte radio, quelle moderne, i microfoni preamplificati, soprattutto le radio che hanno un'uscita microfonica 6 pin, creano un sacco di problemi. No, questo è a 4, e c'ha lo spinotto a 4 pin. E ho già letto le caratteristiche, uscita microfonica 150 ohm. Questo microfono qua, 150 ohm. Infatti ho guardato un po' sui forum e tutti gli hanno cambiato, chi gli ha messo un 93, chi gli ha messo un 95, chi una statica, e vanno tutti meglio del suo normale. Anche ho già provato a mettere mic gain a massimo a 64, ma non cambia nulla. Vabbè, se mi hai detto che la radio è chiara, potrebbe anche andare bene. Eh sì. va bene, ma sicuramente utilizzando, sì, se hai l'uscita 4 pin allora non dovresti avere problemi a, diciamo, a collegarci qualsiasi altro tipo di microfono lì, capito? Non, vuol dire che non è quello elettro, non mi ricordo com'è che si chiama quel tipo di microfono come il mio. Niente, sì, il microfono va bene come microfonino normale, questo che stai utilizzando, non è male, capito? La voce è bella chiara, è comprensibilissima, te l'ho detto, la radio è pulita, capito? Il segnale è buono lo stesso, Santiago 9 qua mi arrivi. Vabbè, l'ho acceso un'oretta fa, quindi è ancora un po' tutto da scoprire. Perché c'ha tanti tastini con diciture diverse che io non ho mai letto. Sono abituato a apparati ben più grandi, però mettono diciture sempre diverse. Adesso me lo leggo piano piano e vedo un po' cosa ne esce. E ti accorgi che c'è un po' di eco? Sì, un eco leggero è però. E difatti è regolabile in due modi. Sia in frequenza che in tonalità. Sì, si percepisce poco, però diciamo che come microfono non è malvagio, no, a sentirlo, quindi va bene. E a Porto Torres ce ne avete di fresco? E mica tanto, sono sotto ventola qua. No, oggi ne ha fatto parecchio, molto caldo ha fatto, molto caldo. È incredibile, per me non è normale, non è assolutamente normale. Mi pare che nei prossimi giorni dovremo arrivare a picchi anche più alti di temperatura. Oggi non è elevata, ma c'è un'umidità pazzesca, ti fa sudare, noi lo stesso siamo con ventilatori, finestre aperte, se no non sopravvivi. E ieri sono andato lì all'aeroporto a prendere una persona, dentro si sta bene, poi quando esci prendi la mascherina, perché ti manca l'aria proprio quando esci. Rosso, dentro c'è l'aria condizionata, anche se tu arrivi, quando arrivo io la mattina entriamo presto alle 5, l'impianto di condizionamento è regolato e parte alle 6, quindi dalle 5 alle 6 ce n'è da boccheggiare e poi siamo costretti ad utilizzare ancora le mascherine FFP2, per cui ce n'è da morire anche dentro. E giusto intorno alle 7, alle 7 del mattino inizi a stare meglio. Capito. Fuori invece c'è la parte dell'aeroporto nuova, dove lì il condizionatore entra subito a regime, come lo attaccano alle 6 si sente subito il fresco, invece la parte più vecchia dove sono io ha bisogno di un po' di tempo per andare, insomma, a rinfrescare tutto. Sì, è così, meno male che oggi ero me la stavo bighellonando in casa, insomma, stavo sistemando un po' le radio, qualche cavetto, qualche cosa che non andava, ma oggi non sono uscito quasi per nulla. Sto ventilatore qui acceso tutto il giorno e vorrei uscire, ma non ci penso neanche. Idem anch'io, avevo due giorni di riposo, adesso rientro domani sera o anche domani mattina, però non te ne viene la voglia di uscire, perché il caldo maggiore lo prendi soprattutto in macchina, perché le macchine sono arroventate tutto il giorno in strada, sotto il sole, quindi quando entri là sudi. Ancora una volta che arrivi nei grandi centri commerciali c'è l'aria condizionata e lì stai bene, però poi ti rimetti in macchina per tornare a casa e arrivi tutto sudato, e in questo periodo c'è da soffrire un pochettino, dai. Comunque tutto sommato siamo lì, io lo stesso dovevo fare qualche modifica qua, dovevo risaldare lo spinotto della discesa del cavo dell'antenna, per mettere un deviatore in maniera tale che possa utilizzare o una radio o l'altra, però a dir la verità col caldo che c'è non ho avuto voglia di portarmi su saldatore eccetera. Quando rinfresca un pochettino vedrò di fare queste cose. In questi giorni non fa fare niente, anch'io sono tutto il giorno così dietro il ventilatore, un po' di televisione, un po' di radio e così cerco di passare la giornata, dai. Buonasera. Ciao. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Buonasera, buonasera. L'ultimo segnale qua. 9, radio 5 anche per me. Bella forte. No, stavo seguendo. Cosa vuol dire? Devi mettere, staccare il PL e mettere il commutatore. Cosa metti? Il commutatore sotto l'antenna? Un deviatore stavo pensando di mettere, capito? Però non l'ho fatto ancora qua. Cosa vuol dire deviatore? Cosa vuol dire deviatore? Ma scusa, ti compri quante radio hai? Due? Ti compri un commutatore e due? Lo metti dentro casa, il cavo dell'antenna lo attacca al commutatore e le due uscite del commutatore, uno a una radio e uno all'altra, come ci abbiamo tutti. Io ce l'ho quattro, ma il mio è sulla T250 della Kenwood. Quando vuoi accendere e usare una radio, l'accendi e la usi e commuti antenna 1 oppure antenna 2. Cosa devi mettere sotto la... Non devi toccare niente su, no Carlo? Oh no, giù dicevo Claudio, giù, vicino alla radio lo voglio mettere. Ma io ho sentito salire su, cos'è che fare su, non ho capito. Certo, un contatore, non devi attorno, un contatore, l'antenna 2 vie. Sull'ingresso del commutatore attacchi l'antenna principale e poi con le due vie fai da una parte o dall'altra, una radio o l'altra. Io ce ne ho quattro e li uso tutte e quattro, non in contemporanea, però quando vuoi usare una spegni una, accendi l'altra e cambi la commutazione dell'antenna. Vabbè, non ho capito che vuoi salire su, fare, aiutami a usare e fare sull'antenna. E allora Claudio, sempre comparendo i baracchini. Ma ne avevo preso uno a stacco parato. UPN, aspetta come si chiama, PN9005. Ho visto qualche video su YouTube e pare, sembrava che fosse qualcosa di discreto, anche se costava poco, l'ho preso. E largo si può immaginare, cioè la profondità sarà 5 centimetri. Sembra il baracchino di Paperino proprio. Dopo 10 minuti non ci metti più le mani sopra perché brucia e scalda in una maniera proprio terribile, ci puoi mettere le uova sopra te le fa. E quindi ne ho adocchiato un altro, il CRC 6009, superstara, e tutti ne parlano bene, l'ho preso, lo sto provando, è quello che sto modulando. Sì, non c'è un baracchino, ce l'hanno un po' tutti, va bene. Ottimo, sta arrivando benissimo. Carlo, l'hai ritirato tu il tuo? Sì, grande sudata arrivare a Borore, perché mi ha chiamato all'improvviso, vieni eccetera, e meno male che l'indomani dovevo andare e invece mi ha chiamato no, se vieni oggi, e quindi ho dovuto cambiare strategia, e siccome dovevamo passare a trovare mia suocera, quindi con mia moglie abbiamo allungato un po' all'andata, sono passato 5 minuti e l'ho ritirato. Bene, ok, almeno c'è la radio nuova apposta. Va bene, dai, vado fuori e fumo una sigaretta io, così nel frattempo mi bevo anche un bicchiere di tè freddo. Vai qua, rientro subito. Ok. Ho appena acquistato un rosmetro, mi è arrivato oggi, che non ce l'avevo, è un rosmetro barometro da radiamo, è 6225, che mi è arrivato oggi. Pensavo che doveva arrivare domani, invece ho sentito a Gino e mi ha detto guardi che gli arriveranno due pacchi, e mi ha detto perché due pacchi, io ho ordinato una cosa solo. E ma per sbaglio abbiamo visto che ci sono stati spediti due pacchi, l'altro gli arriva domani. Io gli ho detto, ma se è una radio me la tengo. No, me la torno più la radio. È ottimo quel rosmetro, io ho il Diamond SX100 e va benissimo, l'avevo pagato quasi nuovo, non ha neanche un graffio, con la scatola originale, anche il cavetto per l'illuminazione, l'avevo preso di occasione su eBay, una trentina di euro, e funziona benissimo. Sì, lo devo ancora collegare, ancora dentro la scatola, ma lo stavo guardando. E ho visto che già si può collegare all'alimentazione per la luce, è carino, è abbastanza. Poi ho visto sui forum, ne parlano tutti bene, che è abbastanza preciso, insomma, e ho voluto prenderlo perché l'altro se n'è andato e mi serviva per poco. E quindi mi hanno detto, domani ti arriverà un altro pacco per sbaglio. Voglio proprio vedere cosa c'è dentro. Magari lo dovresti non accettare e rispedire al mittente. E infatti, lui mi ha detto, il titolare di Radio Shop, mi ha detto, no, guarda cosa c'è, poi mi fai sapere, eccetera, e vediamo come fare. Io non gli dico nulla, non è arrivato niente. Ma se quello te lo mettono, che ne so, nelle sotto, che non firmi, magari il postino oppure il corriere, il problema è che se firmi risulta che l'hai ritirato, o se c'è qualcosa che ti serve magari te lo puoi anche tenere. Vediamo domani. Siamo abbastanza in buoni rapporti col titolare di anche a Radio Giove. Mi ha sempre dato una mano, è una persona molto in gamba. Qualche sconto buono me l'ha fatto in passato e non c'è problema con lui proprio. Sì, sì, ho fatto anch'io tempo fa qualche acquisto, mi sa che avevo preso il capo da loro che era la metà di quello che trovi a Sassari, capito? È anche un buon cavo, Messi Paoloni, quello bello grosso, l'RG213, a ottimi prezzi. Sì, ma a volte ci sono le offerte anche. Su Media Globe c'era l'offerta che fino a domenica non pagavi la spedizione, c'era la spedizione gratis. Sì, ho visto anch'io molte volte che fanno quelle offerte lì. Già va bene comunque quel rosmetro che hai preso, anzi il tuo, l'SX200 se non sbaglio è anche più completo rispetto al mio, però già il mio, l'SX100 va benissimo. Mi voglio fare uno spezzone buono con l'H155 e tenermelo solo per il rosmetro. Così non sto lì a togliere spezzoni da una parte all'altra, se no viene fuori un casino. Sì, già che farò proprio così. E poi più avanti devo prendere un altro strumento. Quello che voglio prendere per misurare l'antenna, è molto comodo, quando fai manutenzione all'antenna, te la puoi misurare da sotto, senza stare lì a battere da tante volte. Forse un po', ma ne vale la pena. Io i giorni scorsi ho preso un deviatore, diciamo un commutatore, praticamente lo voglio collegare qua giù all'antenna, capito? Però siccome ho passato il cavo e poi ho saldato lo spinotto, quindi dove ho passato il cavo non esce adesso, quindi devo disaldarlo e di nuovo saldarlo, capito? Lasciarlo esterno al mobile dove ho la radio, capito? E niente, poi mi sistemo lì il commutatore, magari posso collegare una volta una volta l'altra di radio, ma sto aspettando un giorno più fresco per fare questo lavoretto. Certo, l'avevo ordinato anch'io e da Media Globe me l'hanno mandato, detto prenda questo perché è ottimo, io volevo un Daiwa, invece me ne hanno ritirato un altro, una marca conosciuta, quasi momentaneamente si prenda questo qui. Novi che è ottimo, va bene, mandalo. Mi arriva l'attacco e come devio non sta, lo si sente anche la, la, mi sono bloccato subito, l'ho tolto, l'ho buttato giù. Io questo l'ho preso, ma lo devo provare, se no anche a me mi hanno consigliato quello d'Aiva che dice è ottimo. Sì, infatti conviene, perché magari al momento non ce l'aveva, l'avevano e ormai avevo preso anche un'altra cosa, ho detto se sta dentro con la spedizione lo prendo lì, però conviene d'Aiva, ormai sono affermati, vanno bene questi e poi non hanno un costo eccessivo, mi sa che sui 40 euro lo prendi buono. Sì, esatto, esatto, più o meno la cifra è quella lì, Claudio. E niente, io adesso lo devo provare, come rinfresca lo metto, spero che non mi crei problemi, se no sarò costretto anche a buttarlo via. Eppure dall'aspetto sembra abbastanza ordine, professionale. Ho provato a aprirlo e non c'è nulla, c'è una lametta che è come ruoti dal contatto a sinistra, contatto a destra, però ho visto che si è mollata, quindi tocca una parte all'altra, mamma mia, l'ho buttata, gli ho fatto fare un volo molto lontano. Quello che ho preso io si chiama CX201U, capito, è a due uscite, capito, è anche è bello pesantino, blu, capito, gli attacchi belli in acciaio cromato, sembra di ottima fattura, anche pesantino, poi bisogna vedere com'è. Guarda come marchi che ci si può buttare dentro a occhi chiusi, e dai vai a Reve. Anche la Reve fa roba buona, e da tanti anni come la Daiva, sono due ottime case. E infatti ha detto aspetta un po' poi, e mi serve, lo devo comprare. Speriamo bene, dai. Io in questi giorni spero di riuscire a sistemarlo, già è un lavoretto da poco, capito? E niente, poi magari ti farò sapere se va bene questo qui. Sembra fatto bene di fattura, toccandolo è anche bello pesante, c'ha le viti, mi hanno dato in dotazione per il fissaggio, se lo vuoi fissare. Adesso vediamo, la riuscita non lo so, sembrerebbe buono. Vediamo. È un semplice dispositivo, dovrebbe funzionare bene, insomma, perché per quanto è anche semplice di costruzione, capito? Perché all'interno non credo che ci sia granché. Sì, guarda. Per quanto riguarda il cavo, anch'io dovevo mettere il cavo nuovo. E vabbè, do un'occhiata a Fusaro quando ho fatto la seconda discesa. A Fusaro, che ascolta, ce l'hai per te, sì, dovrei averne ancora un po', e va a vedere se si fichero, e dipende, se mi fa un prezzo buono glielo posso anche prendere, controlla lì sul listino e mi spara, guarda, non posso farti a meno di 5 euro, non te lo posso dare, se lo tenga molto stretto, se lo porti, se lo corichi sotto il cuscino, se lo tenga stretto. Oggi meno male c'è un po' di silenzio orario, cioè non c'è la propagazione, tutto quel QRM che disturbava nelle settimane scorse, che non faceva neanche accendere, c'erano segnaloni forti in FM, entravano in AM, disturbavano parecchio. Oggi tutto sommato è abbastanza silenzioso. Sì, dicono che dipende tutto dal sole, dalle eruzioni solari, quella roba lì. Una cosa che si presenta adesso in estate, che però quest'anno è un pochettino, si è accentuato un po' di più. Vedi bene che certi giorni la propagazione si è spalancata paurosamente, proprio in certi momenti si connettevano la gente di fuori qui, in QSO, insieme a noi, dice sono da Catanzaro, sono in Sicilia, vi saluto, eccetera. Ci sono stati esplorati molto consistenti. Sì, è capitato anche qua, da noi entravano sul 10, dalla Puglia, dalla Liguria, Piemonte, insomma da tutte le parti d'Italia, anche dall'Emilia Romagna qualcuno, con segnali anche forti di 7-8, capito? Quando si aprivano quelle finestre lì di propagazione, addirittura la mattina in FM, anche in AM, l'Olanda, la Francia, insomma paesi del nord, Germania, sono riuscito a fare alcuni DX, ma anche in AM. Ottimo. Ciao Francesco, cos'è? Ottima radio. Cappa, ottima, bella, veramente, veramente bella. Infatti sono salito, ti stavo mandando un messaggio e poi ti ho sentito qua e non ti hanno mandato il messaggio. Va bene, comunque ciao Claudio e ciao anche un altro amico. Fra Carlo da Sassari. Ah, Cappa, Carlo, scusa. Ciao Carlo, ben ascoltato anche a te. Avanti. C'era anche Claudio, ha fatto un passaggio, ma e si è assentato subito. E questo è quel baracchino nuovo che ho preso, del Superstar, del 6009, l'ultimo tipo, il V7, che c'è la modifica per il box e altre cose carine, è un po' complicato usarlo, ma piano piano imparerò. E così è il tuo, Carlo, so che c'è un bel apparato anche il tuo. Già va bene, piccolino ma fa tutto, c'ha la M, l'FM, le bande laterali e anche qua con una piccola manovra riesce a aprire tutto, capito? Anche se lo lascio normale, c'ho anche un aiuto esterno quando voglio e collego quello se voglio. Avanti Giulio, buonasera. Ciao Carlo, buonasera a te, buonasera Franco e buonasera Claudio. Ciao Claudio, spero che tu mi ascolti, sto usando esattamente uguale al tuo, per cui mi dovresti ascoltare, visto che io ti ascolto abbastanza bene. Avanti Claudio. Ciao Giulio, buonasera. Sì che ti ascolto, un po' bacino ma già ti ascolto. Che è un po' di QRM, ma ti tiro fuori bene. Ti stavo dicendo che sto uscendo con un baracchino nuovo, che lo sto provando, non è niente di che, siamo un microfonino piccolo, tipo quello dei VHS, ma mi dicono che sta andando bene, meglio così, va bene così, e tu sei sempre basso, giusto? Sì, perché sto usando la minima potenza, un watt solamente, per cui guarda, vedi? Hai visto adesso? Va bene, ritorno indietro. Sì, certo, vanno bene, guarda, io con un watt ho collegato tutto di qua, che c'era la propagazione. Ti stanno mettendo contante, Giulio. Certo, il solito deficiente, pazienza, cosa ci vuoi fare? Non ci posso fare niente. Evidentemente a quello viene tolto gli occhi, che ne escono subito gli occhi a lui, però così almeno la smetto una volta per sempre. Deficiente, miserabile, che razza di individuo, per carità. Va bene, dai, riprendi Franco se mi ascolti. Cappa Giulio, che ti ascolto abbastanza bene. Ciao, ben ascoltato dopo tanto. E vabbè. Devo perdere, l'importante è che passi, poi non è...